Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente al centro ancora la vicenda autostrade per l'Italia e la revoca, l'ipotesi di revoca della concessione. Adesso si è aperta un'altra ipotesi, ma sono sempre ipotesi di un commissario invece per il gruppo. Però la cosa più importante è che il Consiglio dei Ministri è slittato, come vi hanno ricordato i nostri GR24, alle 10:30 di questa sera, quindi sarà un Consiglio dei Ministri che andrà avanti, immagino, tutta la notte. Non ha come oggetto solo Autostrade per l'Italia, ma chiaramente quello è il capitolo più importante. Per quello che riguarda la reazione di borsa dopo il crollo di ieri, oggi devo dire che Atlantia non recupera, perché ieri è arrivata a perdere oltre il 10%, Atlantia fa più 1,32% adesso, in una borsa complessivamente negativa dello 0,66%, mentre Parigi perde l'1,20%, Francoforte l'1%, Londra invariata, Dow Jones più 0,90%. Di questo parleremo, ci sono anche varie posizioni politiche. La posizione del sottoscritto, la ricorderò, per quello che può valere, è abbastanza chiara. Insomma, non voglio che l'obiettivo dovrebbe essere non far spendere agli italiani e ai cittadini un euro in più in caso di un contenzioso in cui cui esito può essere molto incerto, anche perché, come spiegavamo ieri, vi torneremo, il milleproroghe ha portato da 23 a 7 miliardi di euro l'eventuale risarcimento per gli azionisti, quindi anche per i Benetton. Però è nella lettera, nella proposta inviata sabato scorso a Autostrade per l'Italia, non fa riferimento al milleproroghe. Però è chiaro che qualora vi dovesse essere uno scontro durissimo, potrebbe impugnare anche quella decisione. Quindi da 7 a 23 miliardi è chiaro che la differenza è molto alta, ma a mio avviso anche 7 miliardi in questo periodo per un eventuale risarcimento sarebbero troppi. Cioè, bisogna trovare una soluzione che chiaramente vada a cambiare la governance e quindi l'azionariato di riferimento in Autostrade per l'Italia, ma senza mettersi in una situazione in cui poi intanto avresti 2 anni almeno di contenzioso giudiziario, con il rischio molto forte che poi si blocchi tutta l'attività anche di investimenti, se non la manutenzione ordinaria, e poi senza certezze sull'esito. Quindi, al di là dell'approccio, diciamo, a me non interessa, diciamo, punire, mi interessa cambiare la situazione e che paghino. 3,5 miliardi, a mio avviso, possono essere anche alzati come livello del risarcimento, diciamo così, ma 3,5 miliardi di oneri per la ricostruzione, manutenzioni e riduzione tariffaria direttamente legati alla tragedia del Ponte Morandi possono anche essere aumentati, così come la parte tariffaria può essere vista. Attenzione a infilarsi però in un cul-de-sac solo ideologico, solo, diciamo, per motivi di consenso elettorale. Non è questo il caso, bisogna trovare la soluzione pragmaticamente migliore e più conveniente per lo Stato italiano e quindi per i cittadini. Ma di questo parleremo anche di un'altra vicenda che invece non riguarda l'Italia, ma riguarderà anche l'Italia. In questo momento noi siamo in una situazione più di così moral suasion verso le aziende. Invece in Gran Bretagna, dopo che la notizia era nell'aria da settimane, oggi è arrivata la decisione ufficiale: il Regno Unito ha messo al bando Huawei dalla rete 5G, viene escluso dalle forniture per la nuova rete nel Regno Unito dal 31 dicembre. Sostanzialmente viene vietato alle compagnie di telecomunicazioni l'acquisto di nuove apparecchiature prodotte da Huawei, e viene dato tempo a loro fino al 2027 per rimuovere le tecnologie dalle loro reti 5G. Qual è l'obiezione o il motivo del contendere? Gli Stati Uniti per primi, adesso anche la Gran Bretagna, ritengono che Huawei, essendo in stretto contatto con il governo cinese, rappresenti, se utilizzata nella rete 5G, un cavallo di Troia per poi dare informazioni al governo cinese. Quindi un tema di sicurezza nazionale bella bella e buona. Però nella vicenda britannica molti hanno visto anche una risposta alle tensioni che si sono registrate tra Regno Unito e Cina per l'imposizione della Cina di una nuova legge di sicurezza sull'ex colonia britannica di Hong Kong. A mio avviso ha completamente ragione la Gran Bretagna, quello che la Cina ha fatto a Hong Kong non sta in cielo né in terra, ma al di là della mia opinione, anche perché ci hanno dei trattati diversi, e questo la dice lunga su quanto ti puoi fidare poi degli accordi, in questo caso con i cinesi. Però è chiaro che la partita è una partita in questo momento non solo di carattere così diplomatico, ma anche e soprattutto di sicurezza nazionale. Ovvio che Huawei ha condannato la scelta britannica, ha detto che il Regno Unito resterà escluso, resterà indietro dallo sviluppo tecnologico, però insomma, io invito anche l'Italia, anche perché c'è stata un'informativa, adesso non ricordo male, del COPASIR italiano, sui rischi di affidare anche a Huawei la struttura della nuova rete a 5G. Quindi facciamo molta attenzione, le reti informatiche sono un principio di sicurezza nazionale, tanto quanto quelle fisiche, per esempio l'approvvigionamento energetico o reti di altro, o la rete infrastrutturale, per esempio degli aeroporti. Quindi attenzione, perché su questo, a mio avviso, le fonti di preoccupazione ci sono, ma ne parleremo nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda, qualcuno mi chiede le notizie di carattere macroeconomico oggi, no, non ve ne sono moltissime. C'è qualche elemento di carattere europeo sulla produzione industriale, adesso andrò a ricordarlo. Per il resto della borsa invece, così rispondo anche ad altri ascoltatori, Mediobanca più 2,1, Eni più 1,30, Telecom più 1,20, Banco BPM più 1,20, Exor più 1%, come Buzzi Unicem, Cede e Steam Electronics il 4,40, Prismian il 3%, Interpump il 2,60, Nexi il 2,40, Ferrari meno 2,20, Pirelli meno 1,90 come Moncler, Enel meno 1,40 come Snam, Rete Gas. Continuerà anche oggi il viaggio che facciamo, diciamo, nei settori industriali, quelli anche meno visibili, nei settori economici, scusatemi, quelli anche meno visibili, e oggi affronteremo un tema che può sembrare minore, ma riguarda 61.000 lavoratori su 96.000 che sarebbero in esubero nel settore della ristorazione collettiva. Sono le mense, soprattutto i servizi di ristorazione collettiva. Praticamente qui stiamo parlando di 4 volte i lavoratori dell'ILVA, indotto compreso. Il totale di questo settore, che ripeto può sembrare minore, ma vale 1.300.000.000 di euro e appunto ha 96.000 addetti. Sappiamo che cosa è successo. È stata bloccata, diciamo, la ristorazione collettiva per molti mesi, e tuttora, nonostante lo sblocco di molte attività, è chiaro che nel momento in cui buona parte degli uffici sono ancora in smart working, è tuttora sospesa in moltissimi casi la ristorazione collettiva. Ripeto, 2 lavoratori su 3 rischiano di perdere il posto di lavoro, e di questo parleremo. Alcuni di voi mi chiedono anche delle disposizioni del ministro, di cosa ha detto il ministro Speranza. Adesso vi arriviamo. A mio avviso la cosa più interessante è che è saltato, non grazie a Speranza, ma insomma, è saltato l'obbligo di imbarcare il bagaglio nei voli, per cui si potrà tornare a usare le cappelliere da questo punto di vista, via anche l'obbligo della mascherina in Lombardia all'aperto, se si riesce a mantenere il distanziamento sociale, e ha detto Speranza nessuna decisione sulla proroga dello stato di emergenza. Il DPCM è prorogato comunque al 31 luglio, resta l'obbligo delle mascherine come lo conosciamo, e poi sulla scuola ha detto che la riapertura delle scuole in sicurezza è la parte più importante, altrimenti non si verrà mai fuori dal lockdown. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dico, vabbè, poi ne parleremo a chi mi dice: ecco, lei è a difesa dei monopoli, chi se ne frega dei morti. Forse diciamo ascoltato un altro programma, nel senso che abbiamo detto in maniera molto chiara che la gestione in questi anni è stata inaccettabile da parte del gruppo Atlanti e quindi di Autostrade per l'Italia, perché gli investimenti sono stati nettamente addirittura del 25% sotto quelli previsti, perché lo Stato non ha mai vigilato che chi ha preso in concessione quel pezzo di rete, cioè la parte più importante, facesse quello che aveva detto, e cioè gli investimenti, in realtà i pedaggi aumentavano per gli investimenti effettuati per quelli previsti, poi nessuno andava a controllare che quelli previsti venissero realmente effettuati. E non ho mai detto che la colpa, diciamo, di un comportamento è da attribuirsi al mancato controllo. Voglio dire, se c'è un reato non dai la colpa alla polizia. Quello che però dici, attenzione, che nessuno neanche ha mai verificato, erano troppo lasche le maglie del controllo dello Stato, e speriamo che questo non si ripeta più. A me l'ipotesi di trasferire tutto all'ANAS mette i brividi, perché non è che l'ANAS in questi anni abbia dimostrato chissà quale livello di efficienza, parliamoci chiaro. Ho solo detto che l'ultima cosa che vorrei in questo momento è che, per un motivo puramente ideologico, per spararla grossa, facciamo fuori Benetton, ci infiliamo in un contenzioso giuridico che va a costare soldi ai contribuenti, che poi sono soldi che verranno girati agli azionisti, quindi anche ai Benetton. Allora, oltre il danno vogliamo anche la beffa, cerchiamo di arrivare a un punto di caduto in cui agli azionisti di ASPI venga chiesto di tirare fuori i soldi, abbassare le tariffe e cambia anche lo status societario, perché evidentemente non ti puoi più fidare di quell'azionista come azionista di maggioranza, senza che vi sia però senza mettersi in una condizione giuridica per cui poi fra qualche anno verrà dato ragione agli azionisti e quindi toccherà pure sborsare soldi, per favore. Sì, ha ragione in Lombardia non c'è più l'obbligo di mascherina all'aperto se si mantiene a distanza di un metro, sì, l'ha deciso la regione Lombardia. Andiamo avanti con le altre notizie di carattere internazionale. Dicevo, ci sono alcuni dati societari americani, Wells Fargo segna il primo rosso dal 2008 e taglia il dividendo, JP Morgan, anche qui l'utile del trimestre fa meno 51%, pesano gli accantonamenti. Per quello che riguarda l'Europa, oggi c'è il dato sul crollo del PIL britannico nel trimestre marzo-maggio, ha fatto meno 19,1%. C'è un rimbalzo molto limitato a maggio su aprile più 1,8%, e faccio notare che mese per mese il PIL britannico aveva fatto meno 7% a marzo, meno 20% ad aprile, adesso la media marzo-maggio è meno 19%. Per quello che riguarda la produzione industriale, c'è stato non solo il rimbalzo mese su mese dell'Italia, in generale la media europea ha fatto più 12%, l'Italia ha avuto il rimbalzo più forte mese su mese, più 42%, segue la Francia più 20%. Qui però bisogna capirsi, perché noi abbiamo fatto anche una chiusura molto più dura. Infatti, se si va a vedere il dato maggio su maggio del 2019, la media europea purtroppo è quella della media italiana, meno 21% nella zona euro, meno 20,3% in Italia. Allora, a chi mi dice hai giustificato i Benetton, sei inascoltabile, come sei ridotto, io sarò anche inascoltabile, ma io vorrei sapere lei che cosa ascolta, se non ha capito il mio ragionamento. Quando mai abbiamo giustificato i Benetton sui 43 morti? Attenzione, che c'è anche la magistratura che dovrà dare le responsabilità. La trattativa col governo è, a fronte di un'inadempienza, arrivare a una revoca per me sì, se non pago un euro, sei certo e sei blindata dal punto di vista giuridico la revoca. Se invece c'è il rischio di tirar fuori dei soldi, darli ai Benetton perché le cose vengono fatte male e solo, diciamo così, per slogan, No, andiamo alla soluzione che conviene di più all'Italia e quindi ai cittadini italiani, che sono i possessori, come lo, essendo lo Stato italiano, possessori della rete autostradale che è data in concessione. E dopodiché non ripetiamo l'errore di non andare a controllare, qualunque sia poi il nuovo assetto societario, il rapporto tra tariffe, aumento tariffario e investimenti realmente realizzati sulla rete, impedendo se possibile la possibilità di fare i lavori in house, cioè con società interne, che era l'altro grosso problema di Autostrade per l'Italia. Adesso vi arriveremo. Comunque ancora qualche notizia. Oggi era il 14 luglio, festa nazionale in Francia, che si è svolta chiaramente in maniera non in maniera così virtuale, però Macron ha parlato, ha detto se arriverà una nuova ondata saremo pronti. L'uso della mascherina al chiuso sarà presto obbligatorio nei luoghi pubblici dal 1 agosto. Il rientro a scuola di 12 milioni di studenti francesi sarà quasi normale. Poi ha aggiunto altri 100 miliardi al piano di rilancio che vanno ad aggiungersi ai 460 già mobilitati per provvedimenti settoriali. E ha incontrato il premier spagnolo Sanchez e quello svedese Löfven. Giovedì incontrerà a Bruxelles, è arrivata la conferma sia il presidente del Consiglio Conte che la cancelliera Angela Merkel, che il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, per prepararsi al vertice che sarà molto intenso, diciamo, di venerdì e sabato, quello sul Recovery Fund. E sul Recovery Fund ieri c'è stato l'incontro con Angela Merkel da parte del premier Conte. La Merkel ha detto: penso che avremo un accordo sul Recovery Fund, ha elogiato l'Italia per il modo in cui ha reagito e la serietà dimostrata nel reagire all'emergenza Covid. Ha detto sempre la Merkel ha detto: non dobbiamo ridimensionare troppo il fondo dell'Unione Europea e abbiamo detto che con Conte c'è un'intesa sulle intenzioni che deve avere questo Recovery Fund. Conte a sua volta ha detto: attenzione, l'Italia per criteri di spesa chiari, però attenzione, dicevo, le condizionalità eccessive sarebbero una follia. Non è nell'interesse di nessuno introdurre condizionalità al punto da rendere di scarso impatto pratico e da compromettere l'effettività dell'efficacia di questo programma. Cioè sarebbe una follia, significa, voglio dire, perdere tutti i tempo, veramente illudere tutti i cittadini europei, rallentare la ripresa europea e lasciare l'Europa meno competitiva. Oggi però il mitico, si fa per dire, premier olandese Mark Rutte, che continua a non spiegarci come mai c'è un indebitamento così alto, 4 volte quello italiano, delle società olandesi, oltre che delle famiglie anche olandesi. Da sempre lezioni a tutti, però sono bravi sui conti pubblici, però sono poco bravi sui conti privati, visto che di frugale non ha niente uno che ha un livello di indebitamento così alto. Ma detto ciò, i sussidi a fondo perduto, quindi la parte appunto a fondo perduto, dovrebbero comportare, secondo Rutte, condizioni molto rigide. Questo è l'unico modo. Le risposte ottenute finora dagli altri leader europei non mi fanno sperare sulle possibilità di raggiungere un accordo. E l'Olanda insiste sul voto all'unanimità sulle riforme. Poi invece questa mattina, ospite di Radio 24 con Simone Spezia e Maria Latella, 24 mattino, l'ex premier Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, ha detto: attenzione, abbiamo un disperato bisogno che il recovery non ritardi. Noi abbiamo disperatamente bisogno che non si ritardi, che non si vada alle calende greche, che il Consiglio europeo di giovedì e venerdì arrivi a una soluzione, venerdì e sabato arrivi a una soluzione, se non è quello che uno della settimana prossima chiude la partita. Noi abbiamo bisogno di tempi stretti, questa è secondo me la cosa fondamentale. Tra l'altro mi sembra che sia totalmente condivisa da Merkel e Conte. Poi sì, certo, l'Italia ha una serie di posizioni sulla modalità e sulle forme con i quali queste risorse saranno applicate, però guardiamo la sostanza, stiamo parlando di una quantità di risorse immense che non abbiamo mai visto e che forse non vedremo mai più. Quindi la questione essenziale è che tutto questo avvenga, che ci sia, che non sia bloccato nella fase dell'implementazione e che soprattutto l'accordo tra i paesi europei ci sia. E in questo senso, mentre con la Germania 10 anni fa eravamo su sponde opposte, quando nella crisi precedente la Germania frenava e non era sulla stessa linea italiana di cercare di dare una risposta alla recessione che stava arrivando anche con strumenti europei, la Germania diceva insieme ai paesi nordici: no, la risposta europea è solamente di tipo finanziario, poi ogni paese se la vede sui suoi problemi sociali o di economia reale. Questa volta la Germania ha cambiato posizione, è su una posizione simile a quella dell'Italia, della Francia e della Spagna, però bisogna che tutto questo, ripeto, sia applicato, altrimenti vale per l'Italia ma vale anche per tanti altri, passeremo i prossimi mesi con grandissime difficoltà, perché le imprese hanno bisogno di risorse, nel nostro sistema c'è bisogno che circolino risorse finanziarie e che tutto questo avvenga rapidamente. E allora, a proposito di risorse finanziarie per le imprese, oggi il Tesoro ha assegnato in asta 3, 7, 20 anni di BTP a 3, 7, 20 anni per un totale di 10 miliardi, ha collocato tutto il massimo dell'importo offerto e i rendimenti sono stati allo 0,3%, in calo di 16 punti base per i BTP a 3 anni, i BTP a 7 anni invece il rendimento è allo 0,95%, anche questo calato di 15 punti, il BTP a 20 anni ha un rendimento dell'1,91%, anche qui meno 0,6%, vuol dire che per prestare soldi all'Italia per 20 anni il mercato, gli investitori si accontentano di un rendimento lordo dell'1,90% all'anno. Le domande alle banche, o meglio le domande presentate dalle banche al fondo di garanzia, ammontano a questo punto a 51,3 miliardi di euro, 823 mila di cui 715 mila fino a 30 mila euro per oltre 14 miliardi. Ma la cosa interessante è che continua anche l'aumento dei depositi bancari, perché a dimostrazione che quando hai un tasso di incertezza così alto sul futuro, la gente preferisce lasciare o depositare i soldi sul conto corrente. Più 6% l'andamento dei depositi bancari, di cui tra l'altro hanno fatto più 6% con su base annua 94 miliardi di euro in più. E a giugno su maggio invece ha fatto più 4,7%, un aumento di 94 miliardi nei depositi bancari, quindi. E questo è un segnale importante. Non voglio rispondere a chi mi dice allora adesso, arriviamo su Benetton, abbiate un po' di pazienza anche con i messaggi. Invece il dato del rapporto Excelsior sull'andamento dell'occupazione, è il dato Excelsior, il rapporto delle Camere di Commercio, segnala che le imprese a luglio prevedono 263.000 assunzioni, che sono il 38,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Nello specifico si cercano addetti al turismo e ristorazione 57.000, poi personale non qualificato nei servizi di pulizia 34.000 e addetti alle vendite 20.000. Può sembrare strano come 263.000 assunzioni a giugno, può sembrare una buona notizia, in realtà ripeto il confronto va fatto con il luglio del 2019, quando il dato era molto più alto, di un 38% in più. E a proposito di assunzioni e dati sull'occupazione, oggi durante gli Innovation Days dedicati alla Lombardia che riparte, organizzati dal Sole 24 Ore, il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti ha detto: attenzione, occorre rivedere i contratti di lavoro e bisogna stare molto attenti in autunno, perché prevediamo un forte contraccolpo per l'occupazione. I costi per le imprese sono aumentati in relazione all'adeguamento che le imprese hanno dovuto fare per garantire la sicurezza, e l'occupazione non ha avuto grossi shock perché c'è stato il blocco dei licenziamenti. Il problema si avrà quando terminerà il blocco e avremo un contraccolpo verso l'autunno, e quindi è qui dove ci dobbiamo preoccupare. E poi il presidente di Assolombarda ha chiesto che venga agevolato chi reinveste, agevolato fiscalmente, gli utili in azienda. dobbiamo guardare anche alle regole fiscali. Da tutti quanti gli studi noi vediamo che la pressione fiscale in Italia è ancora altissima. Uno studio di Paying Tax 2020 di Pricewaterhouse e della World Bank su 190 paesi ci posiziona al 128esimo posto, quando la Francia è al 61esimo, la Germania al 46esimo e la Spagna sono al 35esimo. Ecco, questi sono i nostri vicini europei, sono i nostri competitor europei, quindi è una posizione che non possiamo, cioè, che diciamo che rende molto difficile le nostre imprese poter essere competitive. Il decreto del 1° luglio, che taglia un po' il cuneo fiscale per i lavoratori, sicuramente va nella giusta direzione, però deve essere completato e un taglio deve essere fatto anche per le imprese. Ecco, noi dobbiamo lavorare su un modello di tassazione che premia soprattutto in un momento difficile come questo tutte le imprese che decidono di mantenere gli utili all'interno delle aziende. Noi come Assolombarda, ma questo ancora prima del Covid, avevamo fatto delle proposte per avere una tassazione molto agevolata per tutte le imprese che reinvestivano gli utili all'interno delle loro imprese. Quindi rivedere sicuramente questi modelli di tassazione, che poi dovrebbero essere anche poi dopo sull'IRPEF delle persone fisiche, perché i dati che ci sono stati comunicati dall'Istat un po' di settimane fa vedono che c'è un grandissimo dislivello tra i pochissimi che pagano tante tasse e la gran parte che invece fanno parte di una fascia di contribuzione che è molto debole. Allora, adesso andiamo sul meteo. A chi mi dice, tanto vi arriviamo a Autostrade Benetton, il suo ragionamento vuol dire che è come dire bisogna trattare con la mafia. No, abbi pazienza. Qui c'è un contratto di concessione che non ho scritto io, che è stato rinnovato in maniera del tutto sbagliata, secondo me, fino al 2033, se non ricordo male. E c'è un contratto che ha valore di legge, perché tu dai in concessione a un soggetto privato. Non sono gli unici Benetton, ricordavamo ieri, sono Atlantia a 3.000 km, ma altri 1.200 li ha Gruppo Gavio e altri 1.600 sono altri concessionari. Quindi è un po' diverso, tu non puoi però, o hai e ti blindi dal punto di vista legale, sei sicuro che quel contratto che hai scritto con quello che prevedeva la revoca non faccia sborsare un euro agli italiani, e non l'ho scritto io quel contratto, e a mia memoria l'unico ministro che si oppose a quel tipo di mancati controlli, di contratto troppo generoso per i Benetton a fronte degli investimenti, aumentavi i pedaggi e non c'era neanche da controllare, fu il ministro Di Pietro, che poi dovette rinculé, come dicono i francesi, cioè ritracciare su questo. Tutti gli altri governi non hanno mai messo becco su questo. Allora, se però c'è un contratto che ha valore giuridico, devi stare molto attento. Io voglio la soluzione che sia maggiormente vantaggiosa per lo Stato in termini economici, puntando chiaramente a cambiare la governance e quindi l'azionariato e chi decide del gruppo Autostrade per l'Italia. Tutto qua, non ho detto altro. Focus Economia. Allora, Barisoni, non c'è solo l'aspetto economico. Tu cosa preferisci, rischiare una penale o rischiare il crollo di un altro ponte? Allora, ma che cavolo di ragionamento è? Intanto la trattativa col governo non va a implicare la messa in sicurezza della rete autostradale, anzi, se si aprisse un contenzioso giuridico, quindi se non fosse chiara la forza giuridica dello Stato, tu avresti sicuramente per i prossimi 2 anni Atlantia che fa solo Autostrade per l'Italia, fa la manutenzione ordinaria, altro che investimenti sulla rete. E però qui non è il tribunale in questo momento, c'è un'indagine della magistratura che deve accertare responsabilità sulla morte di 43 persone e dubito che possa chiamarsi fuori Autostrade per l'Italia, ma non faccio il giudice. Qui c'è un tema solo economico, cioè come revocare, fare in modo che l'Atlantia e quindi Sintonia e Benetton non gestiscano più la rete autostradale senza però incorrere in un danno economico, quindi che scendano al 30% come hanno proposto. Ha ragione chi mi scrive, non c'è solo il danno per gli italiani, ci sono 7.000 dipendenti, è vero, e ci sono gli investimenti anche da fare sulla rete infrastrutturale. Però prima di arrivare a questo, ed è vero che anche un ponte ANAS è crollato e nessuno sta cioè bisogna stare molto attenti quando si ragiona, perché io non vorrei che adesso venisse utilizzato tutta la vicenda solo ed esclusivamente per fini politici, se si vuole usare un po' di concretezza. Poi pensiamo che tutto si risolva semplicemente levando le Benetton, benissimo, datemi però le garanzie che non si faccia un altro pastrocchio, un altro pastrocchio, perché i governi precedenti, centrodestra e anche centrosinistra, hanno fatto un pastrocchio nel dare quel tipo di concessione ad Atlantia e quindi alla famiglia Benetton. Prima di arrivare a questo tema, però, vorrei affrontare il tema della ristorazione collettiva, come dicevo, perché sono tanti settori, tante famiglie infelici. Sono 61.000 lavoratori in esubero su un totale di 96.000, quattro volte i lavoratori dell'Ilva. E qui il tema non è tanto il lockdown che non c'è più. Da quello che ho capito, il tema vero è anche il proseguo dello smart working, quindi ristorazione collettiva vuol dire soprattutto mense. Il dato è stato effettuato arriva da un'indagine sulle aziende della ristorazione collettiva effettuata da Oricon, che è l'osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione. Il presidente Carlo Scarsciotti è in collegamento con noi, buonasera. Buonasera. Allora, da dove si arriva a questo dato che su 96.000 lavoratori ce ne sono 61.000, diciamo, che rischiano di essere fatti fuori, rischiano il licenziamento? Allora, 31.000 sono i lavoratori dedicati alla refezione scolastica, che però in questo momento, dai dati dallo studio che ha fatto il MIUR, il famoso Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbero rientrare nella ripartenza delle scuole il 15 settembre. Questo è un film che dobbiamo ancora capire come avverrà, distanziamento, doppi turni, eccetera, però diciamo che di quei 61.000, 31.000 li vediamo vediamo la fine del tunnel, vediamo un po' di luce alla fine del tunnel. Quello che ci preoccupa invece sono i 30.000 dei lavoratori e lavoratrici addetti alla ristorazione aziendale, perché la ristorazione aziendale si è fermata con il lockdown. Diciamo che il settore non si è mai fermato completamente, perché abbiamo continuato a operare nella parte ospedaliera e socioassistenziale, per cui diciamo, abbiamo dimostrato una grande resilienza di cui si parla adesso, perché abbiamo lavorato in condizioni difficili. Lo smart working, ma io qui non vorrei entrare in seri ragionamenti se il lavoro a distanza sia più o meno efficace, diciamo. Dal punto di vista economico non funziona. Si rischia di perdere un comparto economico che genera posti di lavoro stabili. Lei consideri che noi non conosciamo precariato, cioè noi abbiamo il 90% di lavoratori a tempo indeterminato, l'80% sono donne, il 50% hanno oltre 50 anni, per cui rischiamo di perdere competenze con questo smart working che poi non riusciamo. Ma guardi, la mia posizione sullo smart working è netta. Lo smart working è una cosa su cui si può ragionare e ha anche dei benefici se fatto con granusali, se in percentuali minori. Non è smart working lasciare l'80% delle persone a casa per via di un virus. Quello è una scelta obbligata, ma non è un frutto di un ragionamento. Altra cosa è iniziare a dire su nuovi modelli organizzativi del lavoro che necessitano tempo e anche misura, perché non puoi passare da uno smart working che si applicava più o meno al 15% dei lavoratori di certi settori all'80%, o remote working come lo chiama qualcuno. Questa è stata una scelta obbligata che continua per molte aziende, continua nel pubblico, perché abbiamo visto il ministro Catalfo dire che si andrà avanti fino a dicembre, per molte aziende per un doppio interesse. L'azienda non ha interesse a riportare i lavoratori al lavoro per i costi di sanificazione e i rischi di focolaio, e mi sembra che i sindacati tutto sommato siano contenti di questa situazione, anche perché a molti dipendenti può far comodo, ma non lo metto in dubbio. Comunque l'ho interrotta, ma che prospettive... Prego. No, c'è anche una grandissima asimmetria, nel senso che le nostre aziende clienti non sono in crisi, cioè continuano a lavorare, per cui non arrivano a strumenti di ammortizzatori sociali nei quali noi ci possiamo inserire, cioè lui continua a lavorare mentre noi non abbiamo più distribuzione dei pasti nei ristoranti aziendali. Attenzione, qui bisogna dividere i due settori, il settore manifatturiero dal settore dei servizi, perché il settore manifatturiero è ripartito, sì. Anche se molte aziende manifatturiere tengono le persone overe, diciamo, le spese generali, amministrative, eccetera, in smart working. Io credo che in questo momento mettere la polvere sotto il tappeto non serve a nessuno. Io devo dire che qui basta fare annunci, bisognerebbe capire qual è la ripartenza di questo paese, lo scenario futuro, perché lo smart working mette in crisi non soltanto noi, ma tutto il mondo della mobilità. A me, guardi, no, mette in crisi intere aree urbane dove si sono fatte riqualificazioni urbane, dove ci sono gli uffici, che possono essere uffici privati, di grandi gruppi privati, uffici pubblici, i bar, i ristoranti, i negozi di prossimità di quelle aree, appunto anche il settore mensa. Poi, voglio dire, ripeto, si può ragionare su nuovi modelli organizzativi, ma non in questo modo, non da una settimana all'altra perché c'è un lockdown e c'è una pandemia in corso, non è quello. Perfetto. Il modo si ragiona, diciamo, e che... si dà tempo anche ai settori per adattarsi, perché non è che possiamo immaginare che adesso tutti quelli che hanno un'attività commerciale in queste aree delle città italiane così gli troviamo un altro lavoro, magari grazie ai Navigator. Prego, Scasciotti. No, perché il settore, devo sottolineare che il settore non è in cerca di assistenzialismo, ma di un progetto concreto, non di annunci, per non perdere tasselli dell'economia e competenze, perché noi a volte banalizziamo, ma dietro la filiera della ristorazione collettiva c'è un mondo di competenze, di investimenti che sono stati fatti da anni, da aziende multinazionali, da grandi cooperative, da piccole aziende, da aziende familiari, che in questo momento rischiano di essere in ginocchio. Noi crediamo che anche l'estensione di eventuali casse integrazione fino a fine anno non sia la soluzione, perché noi in questo momento stiamo perdendo gettito per lo Stato per mancanza di reddito, gettito dello Stato per mancanza di contributi, quindi alla fine l'equazione perdite di posti di lavoro, che ho detto che lei prima ha annunciato che 4 volte Ilva più l'indotto, oppure trovare un modello sistemico in cui lo smart working si inserisca ma con intelligenza. Io faccio sempre un esempio, avendo gestito anche grandi aziende nel passato, prima di occuparmi dell'osservatorio, ma quando una persona, un'azienda deve inserire un nuovo impiegato, un quadro, e deve sviluppare il senso di appartenenza, quello che in inglese diciamo l'induction all'interno, ma come può avvenire attraverso un collegamento in Zoom, Teams o GoToMeeting? È impossibile, quindi si perde l'efficacia dell'appartenenza a un'azienda. Sì, ma guardi, io sono d'accordo con lei, e qui però il governo può fare poco se non farci capire quando almeno il pubblico tornerà al lavoro fisico. Sono d'accordo con lei anche perché, ripeto, i processi si dominano, non si subiscono. Questo non è frutto di una scelta ragionata, che comunque c'era, i contratti di smart working o lavoro a distanza già c'erano, possono essere aumentati, ma con granus salis, non perché c'è una convenienza da due parti o perché si preferisce tenere tutti a casa così si evitano problemi, si fa finta di evitare problemi, i problemi ce li hai comunque. E infatti la situazione peggiore nel mondo dei servizi la vediamo proprio nei centri storici perché mancano i turisti e nei centri, diciamo, direzionali degli uffici perché mancano i lavoratori. Grazie anche a Carlo Scasciotti. Adesso con grande gioia inizio la lunga pagina della vicenda Autostrade per l'Italia. Non ho più nulla da aggiungere sulla mia posizione personale, nessun favore Benetton, nessun favore a chi mi dice guardi che la governance e l'azionariato sono un'altra cosa. Infatti a me interessa che la governance della nuova Autostrade per l'Italia sia diversa e quindi non sia in mano ad Atlantia e quindi a Sintonia. Che poi gli azionisti vadano tutelati, lo prevede anche la legge, ma attenzione, in questo caso c'è sicuramente una gravissima inadempienza dell'azionista di riferimento, che era appunto il gruppo Atlantia, che ha l'88% di Autostrade per l'Italia. I Benetton hanno il 30% di Atlantia attraverso la società Sintonia. Allora, avevo promesso che avremmo riavuto il professor Carlo Scarpa, docente di economia e politica all'Università di Brescia, noto esperto e studioso del mondo infrastrutturale. Professore, buonasera. Buonasera. E grazie di nuovo anche a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Partirei da te, Laura, per capire gli aggiornamenti. La cosa più importante, mi sembra, è questa lettera che è apparsa, diciamo così, è una lettera del ministro Paolo De Micheli, mandata, lettera riservata al presidente del Consiglio Conte, inviata il 13 marzo, in cui si cita la proposta di Aspi di un intervento di 2,9 miliardi, si chiede di avanzare la controproposta per un aumento fino a 3,4 miliardi, e che poi quella proposta che è arrivata da Autostrade per l'Italia, ma soprattutto si chiede di intervenire in maniera urgente. Scrive la De Micheli: credo sia opportuno sottoporre a te la soluzione in termini di cui sopra con estrema urgenza. Ora, nel suo parere del 19 febbraio scorso, l'Avvocatura dello Stato non ha escluso che in sede giudiziaria possa essere riconosciuto il diritto di Aspi all'integrale risarcimento. Ora, il milleproroghe ha cambiato da 23 miliardi a 7 miliardi di risarcimento. Per ora Aspi non l'ha impugnato, ma è chiaro che se si andasse uno scontro, Laura forse chiederebbe anche, farebbe ricorso contro il risarcimento, cioè chiedendo i 23 miliardi? Assolutamente, cioè il ricorso, da quanto almeno si sta al momento, il ricorso che sta preparando Autostrade, ma che in parte è già ovviamente pronto perché devono farsi trovare preparati in caso di necessità, è un ricorso al TAR del Lazio che in caso di revoca chiederebbe l'immediata sospensiva della revoca. Se il TAR riconoscesse i termini sospensivi, a quel punto il dossier andrebbe direttamente alla Corte di Giustizia europea e alla Corte Costituzionale, e a quel punto verrebbe messo in discussione l'intero mille proroghe, anche nella parte in cui si parla di indennizzo, poiché verrebbe messo in discussione il principio del pacta sunt servanda. Qui i patti sono stati cambiati unilateralmente e in conseguenza di ciò l'Avvocatura dello Stato dice all'esecutivo: attenzione, perché c'è il rischio concreto che la giustizia italiana e la giustizia sovranazionale possano dare ragione ad Aspi e quindi lo Stato si trovi a dover pagare 23 miliardi. Oh, e ci manca solo dare ai Benetton l'equivalente di una manovra finanziaria, un po' più di una manovra finanziaria. Lo dico a chi è ossessionato, bisogna cambiare la situazione senza regalare un euro ai Benetton. Però Laura Galvagni e il professor Scarpa, restate con noi, ho il GR24, ci risentiamo fra qualche minuto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Innovare e digitalizzare i processi della supply chain crea competitività per le aziende. Mobile computing, barcode scanning and printing, RFID e real-time locationing ne garantiscono la visibilità. Multimac.it, connecting technologies. Telepass presenta i superpoteri della mobilità. Come prendere al volo il 5% di sconto sul pedaggio? 1. Diventa cliente Telepass. 2. Scarica l'app e attiva il 5% di sconto sul pedaggio, valido per ogni viaggio per tutto il 2020. Con Telepass paghi in super sicurezza, senza toccare contanti e risparmi fino a fine anno. Approfittane ora. Scade il 31 agosto. Offerta promozionale soggetta a limiti e condizioni. Regolamento su telepass.com e condizioni di adesione disponibili anche in app. Ehi, non ti scordar di me! Mai più bimbi dimenticati in auto con Babyguard Foppa Pedretti. L'unico dispositivo antiabbandono approvato per i seggiolini auto Foppa Pedretti. Babyguard invia un allarme allo smartphone collegato con una semplice app ed è made in Italy. Salta sulla tua nuova Alfa Romeo e vai! Ma se la metti in pausa, parte il risparmio. Per te nasce l'Easy Smiles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, noleggia Alfa Romeo Stelvio da 399 euro al mese, anticipo zero e servizi inclusi. Fino al 31 luglio, info su alfaromeo.it. Fresco, estivo, da stappare. Tavernello Frizzante. L'estate cambia musica. Eco bonus, sisma bonus, super bonus. I tuoi crediti da bonus li liquidiamo subito. Registrati su bonuschiaro.it. E tu, vuoi comprarli? Registrati su bonuschiaro.it. Il primo sito per cedere e acquistare bonus subito. bonuschiaro.it. Focus Economia. Dice 18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e con Laura Galvagni del Sole 24 Ore, professor Carlo Scarpa. Laura, molti ascoltatori dicono: ma com'è possibile che ci sia il rischio che appunto in caso di revoca si apra un contenzioso e con il rischio che poi appunto facendo ricorso alla Corte di Giustizia Europea venga data ragione all'azionista, quindi anche Benetton, con quello che è successo? Te lo traduco male, ma per sintetizzare, quindi a fronte delle inadempienze gravi che si sono verificate in questi anni. Proprio per quello che dicevo prima, cioè per il principio del pacta sunt servanda, tu non puoi modificare unilateralmente una convenzione firmata da due parti nel 2007. Nel 2007 era stato sottoscritto un accordo tra la società e lo Stato che prevedeva determinate regole e determinate soluzioni a determinati eventi. Nel caso specifico era prevista la revoca. E nel caso della revoca era stato previsto un indennizzo che doveva essere calcolato secondo una formula specifica. Il decreto mille proroghe ha modificato unilateralmente queste regole, ossia lo Stato ha stabilito che quell'accordo non era più valido e che doveva essere gestito in maniera differente, ma non l'ha condiviso con la controparte. E quindi tu sì, in questo modo di fatto vai a violare un patto scritto. Allora, fermo restando che anche nella modifica delle mille proroghe noi dovremmo dare 7 miliardi, che non sono pochi, sono molti meno rispetto ai 23 previsti, calcolati con quell'accordo, con quel contratto, ma sono sempre 7 miliardi. Oggi abbiamo avuto ospite, questa mattina, 24 mattino, Ettore Rosato, che è vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, che ha detto: attenzione, il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Un conto è estrometterli, diciamo, dalla gestione, quindi dalla governance, un conto è arrivare a un contenzioso che diventa sostanzialmente un regalo per la famiglia. So che ci sarà un'informativa del Presidente del Consiglio annunciato in Consiglio dei Ministri, vediamo se questa informativa porterà a qualche orientamento che poi il MIT, cioè il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Economia e Finanze dovranno trasformare in un cosiddetto decreto interministeriale che porterà poi a dover essere votato al Consiglio dei Ministri, quindi una procedura abbastanza lunga che però passa per una decisione politica. Come bisogna comportarsi con Autostrade? Bisogna o no fare la revoca? Questa è una discussione che va avanti da 2 anni. Io penso che la prima cosa da fare sia quella di dire che si ritiene che la quota di Benetton vada diluita e degli altri soci, perché Autostrade non è, ASPI non è solo in mano alla famiglia Benetton da anni, e che lo Stato entri in quella compagine societaria. Io personalmente sono sempre contrario alle statalizzazioni, ma in questo caso non è come per l'Ilva, non è un'azienda privata che costruisce acciaio, questa è un'azienda che gestisce una concessione dello Stato, quindi che lo Stato entri dentro e che dopo rifaccia ripartire il piano degli investimenti. Il contenzioso va fatto maturare fino in fondo, ci saranno processi penali, civili, ci sarà una giurisprudenza che si consolida su questo. Nel frattempo noi pensiamo che il prezzo che è la sanzione che deve pagare Autostrade oggi debba essere una sanzione commisurata al gravissimo danno che ha causato. Quello che non si può fare è continuare un dibattito demagogico sulla revoca della concessione. La revoca della concessione apre un contenzioso tra Stato e privato che alla fine pagherà e premierà proprio i soci, dai Benetton in giù. Quindi rivedere la governance, e quindi che chi decide dentro la Società per l'Italia non sia più Atlantia, con l'aumento di capitale, con l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti, forse delle Poste, ma attenzione alla revoca. Questa è la posizione di Italia Viva. Adesso vorrei risentire Laura Galvagni per quello che riguarda la lettera invece da De Micheli, però un commento a questo punto al professor Scarpa lo chiedo. Lei, noi speravamo oggi di avere già un Consiglio dei Ministri, ma è slittato alle 22:30. Per quello che lei conosce il mondo delle concessioni, le concessioni autostradali, appunto non ci sono solo i Benetton, e restando molto pragmatici e concreti, qual è la soluzione da preferirsi? Bellissima domanda. Dipende dagli a priori che uno ha. Intendo dire questo: secondo me il tema è un tema di rimettere a posto il sistema di incentivi e di controlli. Dopodiché i Benetton ci stanno o non ci stanno è un problema minore, perché se sono all'interno di un sistema che funziona l'identità dell'azionista è del tutto irrilevante. Io concordo con chi dice che andare a toccare la concessione sarebbe un atto sciagurato, semplicemente che non va da nessuna parte. Se consensualmente si riesce a far riuscire, trovare una quadra di questo tipo, bene, però tra l'altro vorrei capire uscire a quali condizioni, perché ok, abbassano la loro quota, in che modo vendono e a quale prezzo, oppure c'è una diluizione, quindi entra del capitale nuovo e chi ci mette questi miliardi che dovrebbero esserci messi? Cioè, se la CDP ce li mettiamo noi, nel senso che appunto, quindi ci dobbiamo mettere del capitale fresco, dobbiamo metterci alcuni miliardi nella società Autostrade. Anche questo non è una cosa. Sì, però ovvia. Questo avrebbe vantaggio di levare il governo della società a Atlantia, perché avresti un diverso consiglio di amministrazione. E dare maggiori garanzie sul perseguimento degli obiettivi, perché è ovvio che in questo momento nessuno si fida, è difficile fidarsi con quello che non hanno fatto in questi anni, con quello che purtroppo è successo. Laura Galvani, cambia qualcosa dal punto di vista anche politico? Abbiamo visto oggi botte e risposta Di Maio-Salvini, perché Di Maio ha detto che sostanzialmente Salvini era alleato di Benetton, ma Salvini ha detto ok la revoca della concessione se c'è un parere legale che la giustifichi e la sostenga. Poi un membro importante della direzione nazionale del PD come Bettini ha detto se ci sono le ragioni per la revoca si revochi, ma attenzione, mi affido a Conte su questo. Cambia qualcosa, dicevo, alla luce della lettera che è uscita, insomma quella scritta dalla De Micheli? È chiaro che era il 13 marzo e il Presidente del Consiglio poi si è trovato a gestire l'emergenza Covid, ma lì veniva messo in guardia anche dagli aspetti legali, le ricadute legali. Prego. Sì, assolutamente, stiamo parlando di una lettera che è stata scritta 4 mesi fa, una lettera che di fatto già chiariva quali erano i punti chiave, nel senso questo è l'accordo transattivo che potenzialmente possiamo sottoscrivere, che come si è detto prima non è differente da quello che è stato portato poi all'attenzione del Consiglio dei Ministri questa sera. Se non accettiamo questo accordo transattivo abbiamo anche il tempo di modificarlo, abbiamo il tempo di aggiustarlo, possiamo valutare se vogliamo chiedere di più, cosa chiedere, come chiederlo. Se decidiamo però di non accettarlo, ci sono tutti questi limiti rispetto alla volontà di procedere con la revoca. Ci sono dei limiti legali oggettivi. Tutto questo era sul tavolo del Premier 4 mesi fa. Sono stati oggettivamente persi. Ma infatti io dico importanti. Anche agli ascoltatori, guarda che se fosse così semplice fare la revoca, io penso che l'avremmo già fatto. Cioè, chi è che nel governo non ha interesse a fare la revoca se si può fare senza far pagare un euro agli italiani e senza fare un regalo a Benetton e iniziare un contenzioso legale per anni in cui poi magari dai 7 miliardi che già sono tanti, Toto Cadaglia ne 23 e via così. È evidentemente molto più difficile di quanto non scrivono alcuni. Professor Scarpa, uso una frase forte, ma siccome alcuni mi dicono beh però non è possibile che Benetton e quindi Atlantia non paghino per la cattiva gestione e soprattutto aggiungo io anche perché hanno fatto una marea di utili in questi anni a fronte di investimenti decisamente inferiori a quanto promesso e scritto, perché i pedaggi autostradali potevano aumentare per investimenti effettuati e quelli in programma. Allora, com'è che diciamo riesci a punire, cioè quindi responsabilizzare e dare una responsabilità all'azionista senza finire in un cul-de-sac legale? Cioè, com'è che gli fai più male, come ti ho detto male, insomma? Io vorrei intanto che venissero accertate le responsabilità. Allora, è 2 anni che è venuto giù il ponte e ancora non sappiamo perché. La verità è questa. Cioè, poi probabile che loro abbiano delle responsabilità, ma vogliamo avere almeno un accertamento tecnico chiuso su questa questione, perché ancora stiamo parlando. Cioè, rischiamo veramente di dire tiriamo via la concessione perché è venuto giù il ponte Morandi, poi domani arriva un giudizio della magistratura con tecnici e controtecnici che ci dicono no, non è colpa della società Autostrade. Dai, vogliamo arrivarci in fondo a questa questione. Quindi, credo che 24 mesi sarebbero sufficienti. Quindi lei dice intanto abbassiamo la quota di Atlantia e quindi cambiamo la stanza dei bottoni, consiglio di amministrazione, e andiamo avanti con gli investimenti, perché la proposta di Aspi, che a mio avviso può essere anche rivista dal governo, porta a 3 miliardi e 400 milioni gli oneri per la ricostruzione appunto legati alla tragedia del ponte Morandi e una conferma di investimenti per 14 miliardi e mezzo e altri 7 di manutenzione e poi il 5% in meno dei pedaggi. Cioè lei sarebbe per dire intanto riduciamo la quota, andiamo avanti, quindi cambiamo la stanza dei bottoni e poi vediamo anche cosa decide la magistratura? Sicuramente dobbiamo vedere cosa decide la magistratura, spingendo perché ci sia una decisione giusta, ma in tempi ragionevoli. Ma questo anche per la gente che c'è morta sotto, cioè capire perché, perché è morto un mio congiunto di sotto da ancora 24 mesi, non si capisce per quale ragione. Cioè, questi sono tempi inaccettabili. E poi prima di prendere la massa e punire qualcuno, appunto andare a capire se c'è effettivamente qualcuno da punire, per che cosa. Dopodiché la massima severità. Però prima chiarire che cosa effettivamente è successo. Dopodiché trovare una soluzione che non ti blocchi la società per i tempi di un eventuale contenzioso sulla revoca della concessione. Per quello veramente sarebbe un'altra storia biblica, nella quale, tra parentesi, probabilmente succederebbe che nelle more dei ricorsi e controricorsi la gestione resta esattamente quella che è oggi. Ah, certo. Allora sì, che sarebbe paradossale, mentre tenni un ricorso in cui l'azionista potrebbe anche guadagnarci, continua a gestire la rete autostradale. E Laura Galvani, è spuntata l'ipotesi per concludere anche di un commissario, cioè non solo la riduzione della quota di Atlantia dentro Autostrade per l'Italia, non solo gli indennizzi e gli oneri per la ricostruzione, ma anche un commissario? Sì, è l'ultima ipotesi che è circolata. In realtà nella lettera della De Micheli già si ipotizzava l'idea o l'ipotesi di inserire un commissario straordinario, però era nell'ambito del processo di revoca. In questo caso si starebbe valutando l'ipotesi di mettere un commissario alla guida della società senza però attivare la procedura di revoca. Anche questo però, cioè chiariamoci, come può lo Stato arrogarsi il diritto di mettere un commissario in un'azienda privata così d'amblè sulla base di un decreto? Creerebbe un precedente che sarebbe sicuramente... Ecco, però scusami Laura, insisto perché... investitori internazionali. Insisto perché gli ascoltatori dicono, ma è mai possibile, di nuovo, che a fronte di queste inadempienze totali non si riesca, diciamo, neanche a mettere un commissario? Cioè... Ma è un po' quello che diceva il professore prima, devi dimostrarle queste inadempienze e non c'è ancora un giudizio in proposito, non è ancora stabilito chi era il colpevole. Cioè non basta dire, al di là del ponte Morandi, non basta dimostrare che tu, per esempio, gli investimenti non li hai fatti a fronte di quello che avevi annunciato che avresti fatto? Allora, su questo aspetto qui degli investimenti sicuramente c'è un concorso di colpa, chiamiamolo così, c'è una forte colpa da parte della compagnia, ma come diceva prima il professore, la compagnia si muoveva all'interno delle regole fissate dallo Stato, dove lo Stato poi alla fine è risultato molto manchevole dal punto di vista delle verifiche del controllo. Nel senso che è anche inutile andare a revocare la concessione ai Benetton o comunque ad Atlantia, ad Autostrade, se tu non cambi il contesto nel quale fai operare queste aziende. Se tu togli la concessione ad Autostrade ma non modifichi le regole, il prossimo che arriverà potrebbe agire nello stesso modo. Tu hai necessità proprio di cambiare l'impianto concessorio, di scrivere una nuova convenzione, di scrivere delle procedure che obblighino la società ad utilizzare determinati protocolli per seguire determinate norme dal punto di vista delle verifiche infrastrutturali e quant'altro. Se tu questo non lo fai, ma ti limiti a una revoca, è una cosa che ha più del populista che del concreto, perché quello che è successo sul ponte Morandi potrebbe continuare a succedere se lasci questo vuoto di responsabilità tra Stato e soggetto privato, perché poi sì. Si sono mossi tutti in un'area oscura per cui dovevi verificare tu, no, forse questo lo dovevo fare io, nessuno controllava e si è andato avanti così per 20 anni. Allora, fermo restando quello che abbiamo detto ieri, cioè attenzione, non è che la colpa di un reato è della polizia che non ha vigilato, e quindi non stiamo dicendo che la colpa sia dello Stato perché se loro non hanno fatto gli investimenti che avevano promesso. Restano responsabilità oggettiva di chi ha la rete autostradale in concessione, quindi Atlantia e attraverso loro i Benetton. Però è anche vero, già lo diceva ieri il professor Scarpa, che ti converrebbe in questo periodo non solo pensare a chi la deve gestire, ma anche a come fare i controlli e a che tipo di ritorno hai sugli investimenti fatti, sui controlli da effettuare. Se no, attenzione, che il rischio, che poi, anche perché purtroppo i problemi sulla viabilità non li abbiamo avuti solo nelle tratte gestite da Autostrade per l'Italia. Vedremo cosa uscirà questa sera. Capisco la rabbia di molti ascoltatori, però esistono dei contratti, esiste un diritto, esiste una concessione data. Non è così, ripeto, se fosse così facile prendere e levare la concessione senza far fallire ASPI, i 7.000 lavoratori, bloccare gli investimenti, bloccare anche e entrare in un contenzioso giuridico, l'avremmo già fatto. Non è così facile, perché esiste anche un diritto da questo punto di vista, cioè devi dimostrare, e evidentemente lo Stato si era posto in una posizione di debolezza quando ha dato nel 2007 in maniera inopinata un rinnovo del genere, e tra l'altro con controlli così, così blandi. Grazie anche a Laura Galvagni e al professor Carlo Scarpa. Andiamo sul traffico. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora. Agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIG 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Focus Economia. Allora, Huawei, poco fa una nota del gruppo, del colosso, che ha un fatturato di 123 miliardi di dollari e quasi 200.000 dipendenti, ha sede a Shenzhen in Cina. Huawei si aspetta che il governo italiano prosegua il suo processo di digitalizzazione sulla base di criteri di sicurezza, obiettivi indipendenti e trasparenti per tutti i fornitori, preservando la diversità e la concorrenza del mercato. Vabbè, adesso grazie Huawei che invita l'Italia a tutelare la diversità e la concorrenza. Noi vorremmo avere qualche rassicurazione in più, lo dice anche il Copasir in un'informativa, sul rapporto tra Huawei e il governo cinese, perché questo è la base della notizia di oggi, cioè il Regno Unito ha messo al bando Huawei dalla rete 5G, quindi nessuna compagnia di telecomunicazioni può acquistare nuove apparecchiature prodotte da Huawei, e ha tempo fino al 2027 per rimuovere le tecnologie Huawei dalle loro reti 5G. Biagio Simonetta del Sole 24 Ore, buonasera Biagio. Ciao, buonasera. Ecco, alla luce, al di là dello scontro, sappiamo che c'è uno scontro tra Cina e Gran Bretagna per via di Hong Kong, qual è il timore che è partito dagli Stati Uniti, recepito dalla Gran Bretagna, molti governi, la Germania è più così, tentenna di più, l'Italia non ho capito che posizione abbia presa, qual è il timore su Huawei? Ma guarda, oggi in realtà probabilmente si scrive Huawei ma si legge Cina, perché questo è un po' il succo del discorso, cioè Trump ha trovato il mezzo per poter attaccare la Cina, perché è un po' questo quello che sta succedendo, col ban che è arrivato per Huawei nel maggio 2019, quindi più di un anno fa, e che oggi, diciamo, con l'accoglimento da parte della Gran Bretagna ha, come dire, un altro alleato importante per gli Stati Uniti, no? Questo è quello che Trump sta cercando di fare sin dall'inizio, cioè ha chiesto da subito agli stati amici, alleati, li ha chiamati così, di mettere al bando Huawei. Per ora la maggior parte degli stati europei ha nicchiato su questa richiesta, anche lo Stato italiano in parte lo ha fatto. Nel frattempo molti stati europei hanno continuato ad acquistare tecnologia Huawei per le reti 5G, e consideriamo che per esempio lo stesso Johnson fino a qualche mese fa diceva che non c'era alcun problema, che Huawei comunque continuava a vendere tecnologia e ad operare anche in Gran Bretagna. Invece oggi il Consiglio di Sicurezza ha stravolto tutto e ha posto il Regno Unito in una posizione chiaramente contrapposta alla Cina, no? Questo cosa potrebbe voler dire? Potrebbe voler dire per esempio che Brexit ha un peso importante in questa decisione, oltre al fatto di Hong Kong che citavi prima, perché Brexit, che in qualche modo costringe la Gran Bretagna a riposizionarsi anche per faccende di import ed export, forse in questo momento Johnson ha un po' di timori che gli Stati Uniti possano avercela con la Gran Bretagna per il fatto di Huawei. Però secondo me è molto importante in questa decisione qua quello che hanno detto le telco, perché per ora lo hanno fatto le telco, diciamo, inglesi, cioè Vodafone UK e BT Group, che sarebbe British Telecom. Sì. Loro hanno posto un problema secondo me molto importante, che poi si ripercuote un po' in tutta Europa, è lo stesso che si ripercuote in tutta Europa. In tutti questi anni Huawei è stato uno dei leader, forse il leader più importante, diciamo, per ciò che riguarda le infrastrutture delle nuove reti 5G. Quindi un po' tutti Europa hanno acquistato tecnologia da Huawei e da un giorno all'altro invece succede questa cosa qui. Questo cosa significa? Che adesso in Inghilterra devono, come dicevi, fino al 31 dicembre possono ancora acquistare tecnologia Huawei, ma chi lo farà? È difficile anche capire. E poi comunque devono rimuoverla entro il 2027. Esatto. E le telco dicono, qua c'è un problema perché se dobbiamo rimuovere tutto quello che abbiamo già installato, forse 7 anni non bastano. Non bastano per applicare 5G. Grazie anche a Biagio Simonetta, scusi ma devo chiudere adesso. Per questo approfondimento su il 5G, noi ci, e Huawei soprattutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.